uguale. Praticamente così, io ho lavorato 2 mesi, a me mi hanno dato 260 euro, con 260 euro non penso che una famiglia ci possa vivere, Claudio, quindi non so quanto possono dare ai locali commerciali. Quindi voglio dire, se devi far chiudere, devi dare anche maniera alla gente di poter continuare ad andare avanti, di vivere, di non far mancare niente alle famiglie. Poi è una cosa un po' complicata da tener conto, però è così, io la vedo così nel mio caso, ecco. No, sì, è perfettamente, sono d'accordo con te. Il problema è che 260 euro hanno dato a te, ai ladri hanno dato 360 euro, dopo 2 mesi che era in vigore la cassa integrazione. Ok, senza quello che loro, perché loro hanno una società, dovevano dare ai loro dipendenti, ed è uno, quello è il bar, io sto parlando di bar, di un'attività commerciale come il bar, come negozi, come gente che paga le tasse, ok? Ecco, la tua società che paga le tasse, chiaramente quello ti ha dovuto dare in base a che cosa? Non lo so, perché non lo so. Ok, ma ai circoli, manco la cassa integrazione c'è, manco sussidio, capito? Perché non c'è? Perché, come ti sto dicendo io, perché un circolo ricreativo non dà niente allo Stato, lo Stato non dà niente a te, mentre invece le società, le aziende che pagano le tasse, che danno soldi allo Stato, hanno un incentivo. Ok, adesso c'è l'incentivo ristoro, penso che arrivi adesso il 1° di gennaio, e quelli sono dei soldi, perché in base al fatturato che uno ha perso in questi mesi di chiusura, capito? Però per quanto riguarda la cassa integrazione, ho un incentivo mensile, per quanto riguarda un dipendente, è una vera cazzata, è una stronzata, capito? Una stronzata. Però c'è un piccolo aiuto, piccolo, molto piccolo, sono d'accordo con te, niente, perché una famiglia non può campare con 260 euro, se non ha altre entrate. Però, come stavamo dicendo con Luca, i circoli ricreativi, non c'è nessun incentivo, li hanno fatti completamente fuori, e ti sembra giusto a te, uno che ha investito dei soldi per aprire un circolo, che è un'attività uguale alle altre, precisa ed etica, ok, fa parte sempre della ristorazione, li hanno esclusi da tutto, e non è giusto. Ma secondo te i circoli lascia perdere le tasse, è l'affitto al padrone del locale, non glielo devono dare, o così questi mesi gratis glielo lascia, non credo proprio. C'è anche quello, cioè a parte che uno poi deve anche mangiare, deve sopravvivere. Se tu richiudi il circolo, la sua attività, cioè con la scusa non pagare le tasse, beh allora non mangio, perché non pago le tasse, no, è giusto che non mangio. E l'affitto, appunto, non è giusto, no? Io avendo un circolo avrei riunito tanti circoli e fatti casini nelle piazze, perché non è giusto che chiudano un'attività commerciale che dava da mangiare a una famiglia. Il bar che c'è qua sotto dava da mangiare a 3 famiglie, non a una, no, a 3 famiglie, perché sono 2 sorelle e il padre, capito? E sono 3 famiglie diverse, perché ognuno ha la propria vita, sono 3 famiglie, e non so pochi, no. Allora, mi hai ascoltato poco fa, io ti ho detto che i circoli non pagano tasse, ma hanno le spese come qualsiasi tipo di attività, perché pagano la luce, devono pagare l'affitto, devono pagare l'acqua, e se hanno un dipendente devono pagare anche il proprio dipendente, quindi sono d'accordo con te. Ok, 3 famiglie il tuo bar, il bar sotto casa tua, dove l'aria sono 4 famiglie, capito? Perché sono 4 soci, sono 4 famiglie, e in 15 giorni di chiusura hanno perso 13.000 euro a conti fatti nella carta, capito? A conti fatti nella carta, in 15 giorni hanno perso 13.000 euro. Voglio vedere a te come cazzo li recuperi questi soldi. Ti faccio una domanda, così a bruciapelo. Il TS570 quanto ci può valere? Il 570 io l'ho venduto a mio padrino, non so se c'era ancora nel cofano della macchina, perché l'ultima volta ci siamo visti è ancora lì. e gliel'ho venduto 700 euro nuovo. Attenzione che di 570 ce ne sono tre modelli, sono 320 e non male, insomma è un prezzo accessibile il 570 della Kenwood. Poi infatti l'ho già scritto. Ma occhio che non sia un bidone. 570 della Kenwood, quello che costa meno di tutti, perché sono tre serie, c'è il 570S, il 570SX e il 570SXG, ok? Sono tre modelli. Quello che costa meno è il 570 normale e si vale intorno dalle 600 alle 700 euro, 550 a 650, questo è il valore di mercato, attenzione, valore di mercato. Ho capito. Vedo un po' cosa mi dice, aspetta. Mi sembra troppo cazzo meno del... non è una radio eccezionale, è un digitale. Se per usare in banda laterale va molto bene, ma in AM non è questa grande cosa, è sempre come la penso io. Non ha niente a che fare con gli analogici modelli vecchi, quindi 4 dell'Ave Maria, 140, 680, 430 e 440. Però è a livello del superiore al 450, quello senza ombra di dubbio. Molti dicono che anche il 450 non va bene il 27, però c'è chi si accontenta, quindi... Chi si accontenta gode, ognuno vanta la sua roba, io te l'ho spiegato e te lo ripeto e te lo ribadisco. A me il 450 non piace per il funzionamento che ha. Poi che sia una bella radio che va bene il 27, a me non mi andava bene. È una mia scelta. Io non prenderei mai una radio digitale per quanto riguarda la 27. Che poi, attenzione, il 570 è digitale, è un SMD. Attenzione, il 450 non è un SMD, il 450 è un semidigitale con lo strumento a LED, il digitale è un'altra cosa, ok, però per il funzionamento che ha rispetto alle mie esigenze a me non piace, ne ho avuto tre e tutte e tre li avevo dati e sono tornato sempre all'analogico, però rimane il fatto che è una radio eccezionale, ha un ottimo funzionamento e a te piace, giustamente, hai fatto la tua manovra, io no, a me no, non mi piace, per la 27 no, per quanto riguarda la banda laterale allora è un'altra gubba, quello senza ombra di dubbio, il 570 è superiore al 450, come tutto, come ricetrasmettitore, però il prezzo mi sembra troppo basso. C'è il DG lo danno a 600 euro, così che è basso, sì, che cosa va? Vabbè, poi c'è anche un 140 a 200 euro, quindi... Cosa c'entra? 140 la raggio comprare a 2 euro la visa cifra, cosa? Nuovo la vetrina, e ne ho un altro, che adesso lo mando a dare un allineamento, una revisione generale, ma proprio di resistenze variabili, per il resto è funzionante, non ha nessun difetto, non c'era a cambiare nessun componente, e anche quello si venderà a 220, 230, 200, massimo 250, ma dipende da cosa mi prende, cosa spendo per farle queste tarature, questo controllo, capito? Però il prezzo è quello, un 140 oggi si può pagare massimo, se è nuovo, di pacca, massimo 250 euro, non di più. Sì, vabbè, mi è caduto l'occhio lì, per quello te l'ho detto, anche perché adesso vediamo cosa risponde, cosa esce fuori, che ho anche che TS, nel senso che 570 è, se normale oppure se altro. Vediamo, quando mi risponderà, vediamo cosa esce fuori. Poi, nel caso, mi farò dare qualche contatto e parlerò di persona, vediamo un po'. Stai attento al funzionamento, devi stare molto attento al funzionamento. Come dice Luca, io oramai mi sono abituato, ma grazie a Luca perché non avevo nessuna esperienza, se compro voglio vedere video della radio funzionante, ricezione, trasmissione, con strumento vicino, se vuoi vendere così, queste sono le mie esigenze. Se no te lo devi. capito? Se non te lo devi. Io voglio vedere il video funzionante, l'osmetro e il wattimetro a fianco, vedere la potenza, voglio vedere tutto. E allora te lo compro. Se tu non mi fai vedere niente, ti lo devi. Ti ricordo, ci sono tre modelli, c'è il 570S, c'è il 570G e poi c'è il 570GX, quindi devi vedere che modello è, ma anche se fosse il modello 570S, ok, mi sembra un prezzo troppo basso, perché quello è valutato, mi sembra che io ho dato l'SG o l'S, adesso mi ricordo a volte, chiedo a volte cosa gli ho dato, che non era mio, attenzione. Era di una persona che ogni tanto entra in radio, ma che è conosciutissima, mi ha dato a me a vendere, io la volta a Walter di cercarmi qualcuno a vendere, ma no, allora a me che mi serve per fare non lo so cosa. E mi pare che viaggia ancora in macchina, scatolato e tutto, nuovo di pacca, 6 mesi di vita. 700 euro, capito? Sì, ma non sto prendendo niente, era una domanda giusto così, ho visto che il prezzo era buono, ho fatto solo una portata, niente di che. Non sto cercando niente come si suol dire, il problema è che se c'è un affare magari se si fa, ebbene, sono ciccia. Ascolti, allora non mi capisci, ti sto dicendo che quello è un ottimo affare, se però il funzionamento di quella radio è come dici tu, capito? L'affare è quello, cioè alla grande, perché lo compri a 300 quando lo vendi minimo a 500, ti metti in tasca 200 euro per dire, no? Lo puoi vendere anche a 550, dipende, a cabocca. Però stai attento, appunto, se lo dovessi prendere, che vuoi fare l'affare perché c'è, di farti mandare un video del funzionamento della radio. Mi mandi un video, me lo fai vedere tutta la radio, prima in ricezione, in trasmissione, col wattimetro collegato perché voglio vedere i watt sul parlato, eccetera, e io ti sto comprando la radio e fai un grande affare, non piccolo. Sì, vabbè, ho buttato l'occhio così, poi vediamo. Anda Bex. Cappa di Rosmetto, dai, io vado a mangiare. No, io ce ne ho un altro di 140, uno ce l'ho in uso e un altro l'avevo comprato da un amico che me l'ha dato, era praticamente più di un anno dentro l'armadio, quando l'ho acceso accendeva tutto, riceveva però potenza zero, radio zero. Ho detto, ma sicuramente c'è qualcosa inchiodato, e tanto è vero che l'ho aperto senza toccare niente, nuovissima, ma fuori è immacolata, dentro lo stesso, l'ho spruzzata per appena di spray sulle due resistenze variabili che appunto non mi davano garanzie, come ho messo l'induttivo, tum, si è sbloccato, ho visto il wattimetro che è salito, l'ho messo a 50 watt, giusto per non tirarla molto, appena di Mickey Gay, ed è una cannonata, però vuole dare un allineamento, perché il manda laterale, la modulazione non mi piace, la ricezione non mi piace, capito? Non vorrei che abbiamo toccato qualche altra resistenza variabile, quindi lo mando a dare una taratura generale e poi lo metto in vendita. Bene, bene, bene. Ma questo vabbè, non ho da vedere niente, quindi non so neanche cosa. Vediamo cosa mi risponde, poi vediamo, va. Sì, se ti risponde, tu, se ti dice sì, il prezzo è questo, allora ma fa una cortesia, ti chiedo di mandarmi un video generale della radio, in ricezione e in trasmissione, e poi facciamo l'affare. Se corrisponde al vero, fallo subito, perché è un prezzo meno di un 4,40, e quella radio è eccezionale. Quella è un SMD, quella è un digitale vero e proprio, lavora, guarda, quello ha super giù perché non ce li ha tutte, ma le caratteristiche del TS2000, è una bellissima radio, fa di tutto, fa remote, fa di tutto e di più, capito? È un bellissimo HF. Vedremo, non sto cercando niente, dai. Va bene, dai, che mi preparo anche io, che mi pare che già non ha mezzo a fare qualche spuntino. Vabbè, ne approfitto ora che ho il mic, divertito, da tante cose belle, ci sentiamo magari domani per rinnovarci gli auguri, dai, ciao, riprendi Luca. Chi è? Avanti. Ciao Vanni, tanti auguri, ben svegliato, non so di cosa tu stia parlando. Ah, sì, ero io invece. Ero io, ma ho già risolto. Ho già risolto, ne ho preso uno professionale, quindi sono già a posto, grazie. Aspetta, Vanni, se te lo sta regalando già lo prendo, che è per mia sorella. Se te lo sta regalando, però. Grazie Vanni, già mi interessa, se io purtroppo l'ho già comprato, a saperlo prima che va bene, fammi sapere, dai, che già lo prendo lo stesso, ma l'importante è che funzioni. D'accordo, ti ringrazio, ciao Vanni, ciao, già sentiamo domani per gli auguri, dai. Speriamo più presto di vederci anche, che ho voglia anche di vederti, da quando sei arrivato non ti ho più visto, ok? Da Bex, dai, riprendi lui, dai, che anche io adesso mi muovo e metto a far funzionare un po' la tovaglia e i piatti, vediamo cosa succede. Levantipoli, ciao Vanni, buongiorno, avanti qua.